Il contratto di governo siglato da Movimento 5 Stelle e Lega negli ultimi giorni di negoziato che dovrebbero portare a un esecutivo formato da questi due partiti è una sostanziale commistione tra i punti fondamentali portati dai due partiti rispettivamente nel dibattito all'interno dell'ultima campagna elettorale. In generale, la linea di politica economica che si intende seguire, stando al documento, è quella di rifiutare la logica della riduzione del disavanzo al fine di ridurre il rapporto debito-PIL, che è stata un po' la linea politica degli ultimi governi, almeno sin dal 2011, e si cerca di sostenere appunto nel documento che la crescita deve essere il motore, la crescita del PIL, della riduzione di questo rapporto, e quindi non si esclude il ricorso a politiche del disavanzo. In particolare, all'interno del documento si cita la ormai famosa Golden Rule, cioè la necessità di scorporare gli investimenti pubblici produttivi dal calcolo del disavanzo che viene poi sanzionato dalla Commissione Europea, una proposta di cui si è discusso molto sino dagli anni 90 ed è stata anche ripresa da Mario Monti nel 2013, ma che all'epoca non trovò il sostegno degli altri partner europei. Le altre due proposte importanti del contratto sono da un lato il reddito di cittadinanza e dall'altro la flat tax. Il reddito di cittadinanza ne esce modificato, nel senso che la durata massima dell'erogazione viene fissata in 2 anni, mentre nella versione presentata dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale non vi era alcun limite temporale se non il limite delle 3 proposte di lavoro che ogni singolo beneficiario del reddito di cittadinanza doveva accettare. Inoltre, all'interno della discussione su come finanziare il reddito di cittadinanza appare la possibilità di ricorrere al 20% del Fondo Sociale Europeo, così come contenuto in una direttiva, in una risoluzione del Parlamento Europeo approvata dalla Commissione Lavoro appunto del Parlamento Europeo, all'interno della quale c'è peraltro anche il report sul lavoro transitorio di cittadinanza realizzata da FEF Academy nel 2016. All'interno chiaramente delle proposte relative al reddito di cittadinanza c'è anche la pensione di cittadinanza, che sarebbe praticamente il fatto che chi non arriva almeno alla quota minima fissata dal reddito di cittadinanza può avere una pensione maggiorata appunto fino a quella soglia, che è fissata in 780 euro mensili. La flat tax proposta dalla Lega Nord in campagna elettorale è anch'essa modificata, perché invece di essere un'aliquota unica sostanzialmente si parla di un sistema a 2 aliquote, 15% e 20%, con una deduzione fissa di 3.000 euro per le famiglie e l'istituzione di una no tax area per le famiglie a basso reddito. Le complesso di misure relative al fisco includono anche una discussione su come agevolare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione attraverso i cosiddetti mini bot, cioè titoli di stato di piccolo taglio sostanzialmente, che dovrebbero in qualche modo facilitare l'erogazione di liquidità a coloro che appunto hanno crediti non pagati dalla pubblica amministrazione, soprattutto naturalmente imprese fornitrici di beni e servizi. In generale, inoltre, c'è anche un accenno a due problemi discussi all'interno della campagna elettorale: quello relativo alle nuove norme dell'unione bancaria, tra cui anche il famoso famigerato bail-in, e in questo senso si chiede all'interno del documento che vengano risarciti i consumatori che si sono sentiti in qualche modo derubati dalla risoluzione delle banche coinvolte dalla procedura di bail-in, e poi in generale si tratteggia una ridefinizione del confine tra banche di risparmio e banche di investimento, senza però entrare nel dettaglio di come questo debba essere fatto, e si mettono in discussione i parametri di Basilea 3 sulla regolamentazione e sulla patrimonializzazione delle banche. E inoltre c'è un riferimento alla necessità di istituire una banca pubblica di investimento che sostenga le piccole e medie imprese attraverso l'erogazione di credito e che agisca sotto l'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per sostenere gli investimenti strategici di carattere nazionale. Ci sono anche poi naturalmente moltissimi altri punti, anche sull'Unione Europea in realtà c'è una sorta di commistione tra i punti di vista di Movimento 5 Stelle e Lega. Si è però eliminato ogni tipo di riferimento all'uscita dell'Italia dall'Eurozona, oppure a proposte come quella della cancellazione del debito italiano all'interno del bilancio della Banca Centrale Europea, che aveva fatto scalpore nei giorni scorsi. Quindi ciò che emerge in sostanza è un programma che mobilita moltissime risorse, o prevede di mobilitare moltissime risorse. Non ci sono stime ufficiali fornite dal documento, ma stime appunto terze effettuate ci parlano di un esborso di circa 80-100 miliardi, che naturalmente deve trovare delle adeguate coperture secondo quelli che sono i vincoli vigenti, ma che anche se non trovassero adeguate coperture, appunto, dovrebbero essere coperti da un disavanzo. Naturalmente ancora non si hanno linee di calcolo relativamente a quanto questo disavanzo dovrebbe essere. Certamente l'applicazione simultanea del reddito di cittadinanza e della flat tax comporta uno sforzo fiscale superiore a quello immaginato dai singoli partiti separatamente nei programmi forniti in campagna elettorale, e c'è anche il nodo cruciale di come poi eventualmente affrontare un negoziato in sede europea qualora non fosse possibile rientrare all'interno dei parametri realizzando tutte le proposte contemporaneamente. Relativamente a questo punto c'è un orientamento generale che è volto a ridiscutere da un lato la supremazia di alcuni paesi all'interno della definizione delle regole europee. Non ci sono riferimenti a nomi specifici, ma è probabile che si parli dell'egemonia tedesca in un certo senso, e dall'altro c'è l'idea di rifiutare in un certo senso la logica della austerity, comunemente detta, cioè quella di ridurre il debito e il deficit nell'anno corrente per ridurre il rapporto debito-PIL nel corso del tempo. Il punto fondamentale da capire è anche quanto si vorrà fare affidamento su strumenti come i mini bot di cui abbiamo parlato, la cui definizione contabile non è certa e non è comprensibile con certezza al momento, perché a seconda di una decisione che poi dovrà essere in capo agli istituti di valutazione europeo come Eurostat, il fatto che essi possano essere valutati o meno come ulteriore debito pubblico aggiuntivo può naturalmente limitare di molto lo spazio fiscale immaginato dal governo che va a formarsi. E quindi in questo senso risulta fondamentale capire come verrà impostata la negoziazione a livello europeo, perché è davvero molto probabile che il complesso delle misure fin qui analizzate, a cui si aggiunge anche naturalmente la riforma o il superamento della legge Fornero, c'è il rischio appunto che queste misure comportino una necessità di spendere in disavanzo più di quello che si era inizialmente preventivato. E su questo il nascente governo ha l'onere e l'onore, in un certo senso, di comprendere quali sono i margini di flessibilità delle attuali misure europee relativamente alle finanze pubbliche e quale sarà il grado di cooperazione dei vari paesi per l'applicazione di queste riforme.